Temiamo dunque che, mentre rimane in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi risulti mancante. Infatti anche noi abbiamo udito il lieto annunzio come costoro. Ma non giovò loro il messaggio annunziato, non essendo essi uniti mediante la fede a quelli che ascoltarono. Entriamo nel riposo, infatti, noi che abbiamo creduto, secondo ciò che disse, cosicché ho giurato nella mia collera, non entreranno nel mio riposo, benché le opere di Dio siano terminate fin dalla creazione del mondo. Ha detto infatti così in qualche luogo, intorno al settimo giorno, e si riposò Dio nel settimo giorno da tutte le sue opere. E in questo salmo, di nuovo, non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimane stabilito che alcuni vi entreranno, e i primi a riceverne il lieto annunzio non entrarono per la loro disobbedienza, Dio fissa nuovamente un giorno, un oggi, dicendo per bocca di Davide, dopo tanto tempo, come è stato detto prima, oggi, se udirete la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ora, se Giosuè li avesse introdotti nel riposo, Dio non parlerebbe dopo queste cose di un altro giorno. È dunque riservato un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Chi infatti entra nel riposo di Lui, anch'egli si riposa dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Applichiamoci dunque con premura a entrare in quel riposo, affinché nessuno cada nello stesso esempio di disobbedienza. La parola di Dio, infatti, è viva ed energica, e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino all'intimo dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Davanti a Lui non vi è creatura che resti invisibile. Tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale noi renderemo conto. Avendo dunque un pontefice grande che ha attraversato i cieli, Gesù figlio di Dio, teniamoci saldi nella professione della fede. Non abbiamo infatti un pontefice che non possa compatire alle nostre infermità, essendo stato tentato in tutto a nostra somiglianza, eccetto il peccato. Avviciniamoci dunque con sicurezza al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia per il momento opportuno.